Friuli nel mondo, 47esima trasmissione dedicata agli emigrati. Valle dell'Alto Boot. Cercivento di sopra, cercivento di sotto. Il canto, vecchio di chissà quanti secoli, ha tessuto orora le lodi dei due caratteristici paesi posti là dove la valle dell'Alto Boot immette, tra il frondeggiare dei boschi e il frastuono dei torrenti, nella Val Calda e alla fresca e ridente sorpresa di Ravascletto. Siamo in un angolo della Carnia dove parlata, canti, antiche case e ancor più antiche chiese con il sigillo di un'ereditaria abilità artigiana parlano al cuore col miracolo di una tradizione che ha mantenuto intatti i suoi aspetti attraverso le molteplici vicende del tempo. Quassù il Friuli ritrova le espressioni più poetiche della sua anima. Lo dicono i lenti melodiosi motivi delle villotte tramandatesi da padre in figlio attraverso una lunga teoria di generazioni. Nella purezza delle note, nell'ingenuità delle parole, nella semplicità e nella forza del sentimento da cui sono sbocciate sta il segno di una atavica grazia. Alta valle del Boot, terra dove natura e fede sono strettamente compenetrate. Ne sono testimonianza le piccole icone che si incontrano per via, adorne di profumati fiori della montagna, e le suggestive chiese poste a ridosso dei boschi o addirittura sulla cima dei poggi, quasi a tutela della valle verdissima di pascoli e di prati, come la pieve di San Pietro, cui si sale da Zuglio la romana Iulium Carnicum. A San Pietro, ogni anno, per l'ascensione, si rinnova il rito del bacio delle croci, il bacio delle pievi minori alla pieve madre, secondo un'usanza che risale forse a prima del 1000. Le croci ascendono l'erta, ornate dei nastri variopinti che le spose hanno lasciato nel giorno delle loro nozze, e dinanzi al sagrato avviene la chiamata, l'appello di tutte le pievi, cominciando dalle più lontane, seguendo un ordine preciso e immutato. Tradizioni antichissime, ricche di una religiosità profonda. Come antichissima, di certo anteriore al 1700, è la tradizione dell'elezione dei cantori della chiesa di Cercivento, che ne annovera 12, scelti fra gli uomini di più intemerata vita del paese. I 6 di Cercivento di sopra siedono a destra nel tempio, i 6 di Cercivento di sotto a sinistra. Singolare rito quello dell'elezione dei cantori. Quando uno di essi manca ai vivi, il suo scanno viene ricoperto per un mese da un drappo nero, in segno di lutto. Poi, allorché viene eletto il nuovo cantore, il quale si impegna con atto scritto a pagare la merenda per tutti i componenti la cantoria, il padrino che egli si è scelto fra i colleghi lo accoglie prima della messa grande sulla porta della chiesa e lo accompagna al suo scanno, dove si siede dopo che il più anziano della cantoria gli ha stretto la mano in segno di benvenuto. Bella davvero questa tradizione, nella parrocchia dove visse quella figura generosa ed arguta che fu Don Luigi Zuliani, da tutti chiamato Sior Santul, il quale trascorse ben 53 anni di ministero sacerdotale in un edificio che annovera 5 cantine, 4 cucine e 2 sole stanze, naturalmente vuote tutte, perché il buon parroco tutto dava ai poveri di quel poco che aveva. Il giorno di San Silvestro i cantori fanno il giro delle case delle vallate, vanno di famiglia in famiglia e intonano a ringraziamento dell'anno che si è concluso e a propiziazione di quello che sta per nascere una laude, propiziatoria anche per il padrone di casa, che offre loro un po' di vino e di pane. Caterina Percoto, la contessa contadina, nell'alta val del But, attinse dalla viva voce del popolo il materiale delle sue leggende, cariche di fascino per la loro toccante ingenuità, e di cui sono protagonisti fate, streghe, orchi e misteriosi e strani personaggi creati dalla fantasia popolare. Ancora oggi è viva quassù la leggenda di Toricoti, dal nome di un torrione roccioso di Malga Tamai, fra Sutrio e Priola, che può vagamente somigliare ad un uomo e che ha dato vita a un ironico modo di dire. In tutta la vallata, infatti, della ragazza che non trova marito si dice che aspetta che la sposi Toricoti. Così, ancora oggi, è viva tra questi mondi la leggenda del Salvan di Sudri. In tal cred dal noc, crot e pelos, al viveva il Salvan di Sudri. Al portave via i purciz appena scotaz, e sai mangiava tal soandre di tof. La in non si parava di lui. Un egnot, alle lata ciurciurin, clamà da un odor di pei brusaz. Ma il paron de bestie copade, le ametude in vares come un uomo muar. Il Salvan ingianat, alle tornat via Sudri plen di strache di fan. Doi boscadors, gli ancorud da ur e lo han brincat al bosco. Alle finite, schiamoses di Pieri Coguet, sindic da vile. La fanche sierve di Pieri, col portai di Maglià, si è innamorate di lui. Si son maridanz. A sonna surz, tre fruts e une frute, gnelo, pelo e pudi e la malen. Int miege umane e miege salvane. Alle il proverbi caldis, gnelo, pelo, pudi, induci trei, no han un once di studi. La non divina san. Si partia va sui san, sui san. Che dire poi del candore, della freschezza, dell'incanto di questa preghiera del Venerdì Santo, che mesce il friulano all'italiano e in cui l'anima del popolo confonde con un risultato di stupenda poesia il Calvario ove spirò Gesù con il passo di Monte Croce Carnico. Ascoltate. Santissimo di Croce. Finalmente s'adorave, finalmente s'abbracciave, figlio, figlio mio, credevo che tu fossi morto. Navo Maria, vo Marie, denti dal vostri cur, passò una grandulie. Essa fa il paio, come espressione dell'ingenuità dell'anima popolare, con questa ninna nanna raccolta Noiaris. Intanane, intananute, intanane, intanina. Ed ecco come il poeta Beppo Rupil descrive la scena della preghiera serale di un'antica famiglia carnica. Oe, bisodeaz, vinisa si uno adiles roseons, subesclets busarons, incenoclai si quida pedisi ad davordime. Angelus Dei, customei, metimi sul comiso impatate sul perno, et ogio nella lumine in custodia iumichi in reget in giberna, amen. Mari, i hai di fa la roia, nastala di fou come giù la ploia, e tu cacu rassa di chian sta ferm con che man. Save regina, madre misericordia, vita dulcezza specie nostra, save. Mari, lu becca stunca la giocola, Preave maciurate, tirei u che cotola. A te cramamus, oseli, filideve, a te spiramus, gente, sette frente, s'immacula. Via, mo via, na sta dormito, cacu. Ten su che chiav, Maria. Vacarum vale, gio ergo, vocata. Ma mi fai già vignimata! Vocata mostro, oculo tuo scoverto, castendo, ca cremo, capia. E Jesus vitus frutus o costende coca crema o capio, dolcissima virgola Maria. Begara, begara, tutoni, begara, topari, quancalventi, schiassara ben laga da stomitve. Gnara me, gnara te, varacata. Tasia, tasia, con che bogliata. Adara mirtute, canta rosta, amen. Mario, Mario, iai sen, sen. Cacu. Quarta di forto, Fradi, e tu, Maria, mezzo il forco e il formadi. L'hai da spaduti a dormire, la sai chi chi uscufons, chi hai d'impidi aiutalons. Maria, le scur, scur. Toi su la lum di ping e da spolasai la susdialin. Buonanotte, Mari. Buonanotte, buonanotte. Farias lo senta Santa Cruz davanti alla sotto la pleta. E tu, Maria, sta pinquieta per non frua la sbleons. L'aidmo, l'aidmo con Dio e con la sbenedizione. Ma anche terra di abili artigiani, la valle dell'Alto Bù. Non per nulla Sutrio è famosa per i mobili, che con ritmo crescente vengono convogliati verso le province vicine. Da anni poi viene allestita una mostra del mobile che registra notevole successo e largo numero di visitatori e acquirenti. A esaltazione del falegname, che è uno dei quattro più antichi mestieri dell'uomo, secondo la definizione di Giovanni Papini, e che nella vallata carnica è una delle più diffuse attività artigiane, eccovi ora il canto dal titolo Il Marangon. Ovunque cada lo sguardo, sui monti o sulle malghe, sui torrenti o sui paesi circostanti, sulla Tenchia o al Pian delle Streghe, sulla Creta di Timau o sul Terzo o sul Moscardo, sul Pal Piccolo o sul Pal Grande, sul Pontaiba o sul Coladegna, su Noiaris o su Priola o su Paluzza, su Malga Promosio o sul Zofplan, tutto in questa valle odorosa di fieni e di mirtilli, pulita e decorosa, è un invito alla nostalgia. Il canto a Sutrio, il paese che riassume tutta la bellezza della valle dell'Alto Bhut, ricorda questa magnifica terra di memorie che il Carducci nella ballata in Carnia così descrive. Sulle vette della Tenca, per le fate è un bel danzar, un tappeto di smeraldo sotto al cielo, il monte par.